spalle. Finiscila! Ti sta giocando. No! Usa l'inganno. Basta! Mi fai affanno. Oddio! Lo vuoi sapere per davvero quale cose come stanno? Non saprei mai a te riguardo se ascolti il cuore è solo un danno. Paura, quando guardo indietro vedo vetro, sento dentro un vuoto lento e spento, prendo fuoco, nuoto a fuoco e non è un gioco, poco c'è da dire, sempre in poco pace, ma se il mio tormento in faccia penso di essere incapace di trovare un'efficace soluzione, questa situazione è come andrace, ho la pulsazione sotto zero, è chiaro che non spero di essere nel pieno della fase della depressione, l'impressione è che sono in centro, vetro tormento, voglio un commento. Se ti dico tradimento, sospetti, angosce, rispetti, cosce e petti, portano a rigetti. Tu sei leale, rispetti, ma te l'aspetti? Se lei ti metti cornetti, stai male, rimetti. Vedevi fiori e confetti, vedevi bene angioletti. Ci sono pene e difetti, ma se continui non smetti. Resti bendato, prometti, a te tensione, commetti un errore, folletti, non esistono aspetti. Aspetti cosa, ma scherzi, ti paragoni agli insetti. Sospetti che ti tengono la mente, la lamentina. Ti serve la tranquillità, la testa sgomberà. Paura emergerà sul testo tutte queste voci che ti portano a star male, ti vogliono curare. Sospetti che ti tengono la mente, la lamentina. Ti serve la tranquillità o la testa esploderà. Paura emergerà sul testo tutte queste voci che ti portano a star male, ti vogliono curare. Sospetti, colpa delle voci, spesso corrono veloci, date dall'invidia spesso si diventa feroci, si emettono verdetti, si commettono atroci, ingiurie che levano a croci, uglie accuse dure come noci, senza scuse, senza luci, quindi a che pensieri induci ancora cruci, mangia tarallucci, mentre bevi sbucci pere con la testa piena di paranoie, mentre voci di paranoiettature, dove passare ore e ore sotto il sole o con la neve, con le palle piene di ira, guardi i polsi e vedi bene, tira un'aria di tempesta in testa, tira testa la tua parte che si presta ad ascoltare, gente lesta nel carpire, nel parlare, con la lingua biforcuta stanno a evidenziare la caduta e fanno buca se ti inculcano l'effetto sambuca, gente che aiuta, gente che sputa, che ti saluta e ti fa il dito dietro la nuca, ti chiama amico e poi ti dice suca. Sospetti che ti tengono la mente, la lamentina. Ti serve la tranquillità o la testa sgomberà. Paura emergerà sul testo tutte queste voci che ti portano a star male, ti vogliono curare. Sospetti che ti tengono la mente, la lamentina. Ti serve la tranquillità, la testa esploderà. Paura emergerà sul testo tutte queste voci che ti portano a star male, ti vogliono curare. Sensazione distorta ed impotenza, ti senti lenta, una visione contorta in apparenza, una tensione comporta, poi turbolenza, questa pressione è una torta, senza sostanza, è come una porta senza la stanza, come una scuola di ballo, senza la danza, questo tripudio di odio mi fa passare lo sballo, mi fa sentire sciacallo, perché sospetto e non sbaglio, voglio credere a lei senza trovarmi pantaglio, è in questa fase di stallo che io vivo un travaglio, vorrei avere un bavaglio per estraniarmi dal mondo, poter restare taciturno e continuare giocondo, passando il mio turno, sognando Saturno, vivendo col turbo, sembrando più furbo, col sopracciglio che incurvo. La verità è che sono solo un uomo solo, preoccupato di essere accoppato ora che ho spiccato il volo. Ho paura.